Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena. Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l'acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra loro. Dicono che sono dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano non solo perché sono poco attraenti e selvatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche, quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura attività criminali. Si privilegiano i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti, ma disposti più di altri a lavorare. Si adattano alle abitazioni che gli americani rifiutano, perché le famiglie rimangano unite e non contestano il salario. Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa prima relazione, provengono dal sud dell'Italia. Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriarne i più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione. Ottobre 1912, relazione dell'Ispettorato per l'Immigrazione al Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti. Salve e benvenuti anche a questa nuova puntata di Lucciole nelle Buon tenebre. Pranzo. Buon pranzo, buon appetito. Buon appetito. Siamo Ilaria, Francesca e Pietro. Purtroppo. Grazie Ilaria, un piacere sempre. E come avete capito dai toni giocosi di questa, dai toni iniziali di questa trasmissione, parleremo oggi di immigrazione. E vi abbiamo letto questa relazione che appunto è stata redatta negli Stati Uniti quando noi eravamo ancora un paese di emigrazione, e ci confrontiamo invece oggi su quello che è il nostro territorio, il nostro paese, che è diventato oggi un paese di immigrazione, come possiamo vedere. E ci scusiamo subito in anticipo con i nostri ascoltatori leghisti, che sono numerosissimi, perché insomma qua si parla male dei lombardi e dei veneti, a noi spiace, però anche quelli del sud Italia. Quindi, però l'abbiamo fatto leggere un veneto per far vedere che sanno ancora leggere. Insomma, nonostante e sanno fare autocritica. Duri di comprendonio. Tra l'altro i leghisti, che appunto come esce dalle ultime cronache giudiziarie, odiano tanto gli immigrati, li considerano delle merde eccetera, però poi non gli dispiace appunto andare a mettere i soldi in Tanzania o comprarsi uno yacht nelle coste tunisine, notoriamente lo padane. Dicevano anche gli americani, appunto, sono un po' tardi. Parliamo proprio di questo, del 1912. 12, ottobre 1912. Sono le stesse parole che si utilizzano oggi nei confronti... Da parte di alcuni esponenti. Cioè noi italiani le utilizziamo oggi nei confronti di altre etnie. Etnie, sì. Alcune parole che si sono sentite anche estremamente di recente. Assolutamente verso sì. Alcune politiche immigratorie. Che lanciamo questa canzone iniziale così per smorzare i toni. Per entrare in immigrazione. E l'hai scelta tu, quindi io ti invito... Questa è una canzone di Miriam Makeba. E è Zulu Song. Don't be gay. Vi tediamo un pochettino raccontandovi adesso della legge, della più recente legislazione sull'immigrazione. Sì, in materia di immigrazione in Italia abbiamo, vabbè, la famigerata Bossi-Fini, su cui si è tanto discusso. Ed è del 2002. E quindi sì, vi richiamiamo velocissimamente i punti fondamentali. Perché ne sono tantissimi, difficilissimi, ne diciamo qualcuno. Allora, vai, dunque, il primo. Entra in Italia solo chi ha già un contratto di lavoro e già a questo punto lascia intendere tutta soltanto la soltanto visto, altrimenti nulla. Il permesso di soggiorno, vabbè, viene abbassato dai 3 anni della precedente turco-napolitano a 2 anni. Viene introdotto il reato per il clandestino espulso dall'Italia che vi rientra. Esatto. E se privo di documenti, esso viene portato in un centro di permanenza per 60 giorni. Nel caso invece esso non venga identificato, gli viene intimato di lasciare il territorio entro 3 giorni. Prima erano invece 15 giorni. Quindi è una legge, diciamo, estremamente punitiva. E sembra esserci quasi un sottotitolo alla legge. Sottotitolo che secondo me è implicito, ma anche no, nel senso che io volevo parlarvi della mia esperienza personale che ho avuto 2 anni fa a Lampedusa. Perché sei egocentrico, ma perché è interessante. No, perché è interessante, stavolta davvero. E sono andato appunto a Lampedusa con Amnesty, un progetto che è stato fatto per far conoscere ai giovani d'Italia la questione Lampedusa, sia dal punto di vista dei migranti, ma anche dal punto di vista dei lampedusani stessi, che dai media che hanno rappresentato l'emergenza come con anche termini forti e termini assolutamente fuori luogo, appunto l'ha rappresentata come una appunto un'emergenza in cui i lampedusani dicevano basta immigrazione, erano contrari. In realtà i lampedusani hanno accolto i migranti a braccia aperte e anzi protestavano contro il governo che li ha abbandonati a se stessi, oltre che col governo anche con l'Unione Europea. E appunto questa esperienza mi ha toccato molto, perché vedere con mano, o comunque quantomeno non tanto vedere, perché poi nei CIE, che sono i centri di identificazione ed espulsione, dove venivano vengono tuttora gettati i migranti, e non tanto appunto vederli perché non ci lasciavano entrare, però proprio stare lì a un passo e vedere questi luoghi che sono delle ex caserme. Perché in cui non le persone ci facevano entrare? Questa è una bella domanda che dovresti fare a loro, ma fondamentalmente perché possono entrare solo determinate associazioni riconosciute. Paganti. Non so, questo no. Però, se non altro, è una cosa sconvolgente, perché vedere queste persone che dopo un viaggio distruttivo in mezzo al mare, guidati da dei contrabbandieri che li trattano come bestie, arrivano finalmente nella terraferma sperando in una... Neanche tutti quelli che sono partiti. Purtroppo. E arrivano e vengono rinchiusi in queste strutture che sono delle prigioni, perché c'era il filo spinato attorno, sono delle prigioni, trattati come davvero degli animali, anche chi aveva diritto a essere qua, perché ricordiamo che la nostra Costituzione prevede l'asilo politico, cosa che viene assolutamente dimenticata troppo spesso, e è qualcosa di sconvolgente. Anzi, invito tutti a guardare con mano e toccare con mano, magari nella stessa Bologna, andando a fare un salto al CIE in via Mattei, perché la situazione è davvero terrificante. Dove non ti faranno entrare, esatto. Ma guardi da fuori. A Lampedusa poi ho avuto anche la fortuna di ricevere un insegnamento da Alessandra Ballerini, che è un avvocato nonché un attivista di Terre des Hommes, che appunto ci ha spiegato come funziona l'immigrazione. Lei se ne occupa da tantissimo tempo, e anzi, dopo la canzone che lanceremo, che è di Bob Dylan, I pity the poor immigrant. Yeah. E sentiremo appunto un'intervista realizzata da Flavia e Sara, in cui parlerà Alessandra Ballerini. Pity the poor immigrant who wishes he would have stayed home, who uses all his power to do evil, but in the end is always left so alone. That man who fingers cheats and whom lies with every breath, who passionately hates his life and likewise fears his death. Pity the poor immigrant whose strength is spent in vain, whose heaven is like iron sides, whose tears are like rain, who eats but is not satisfied, who hears but does not see, who falls in love with wealth itself and turns his back on me. His town with blood, whose visions in the final end must shatter like the glass. I pity the poor immigrant when his gladness comes to pass. Ciao, siamo Sara e Flavia, siamo a Promigrè, Festival dell'Immigrazione delle Genti. Abbiamo qui Alessandra Ballerini, avvocatessa di Terre des Hommes, e volevamo chiederle, Alessandra, come si è mossa la criminalità organizzata in questa scelta dello Stato italiano di non seguire un percorso chiaro e legale nella gestione dell'emergenza del Nord Africa? Sì, come sempre quando le persone vengono private dei loro diritti e quando vengono privati dei loro diritti da uno Stato, devono elemosinare i loro diritti e elemosinarli vuol dire a volte chiederli a percorsi che non sono esattamente quelli istituzionali. E così, per fare un esempio, se per rinnovare il permesso di soggiorno concesso per motivi umanitari lo Stato impone che venga stipulato un contratto di lavoro e queste persone un contratto di lavoro adesso in periodo di crisi non possono averlo perché il massimo che trovano, come quasi tutti gli italiani peraltro, è qualche lavoro in nero e precario, è chiaro che si rivolgeranno alla criminalità, cioè a persone che offrono finti contratti di lavoro a fronte di pagamenti 2, 3, 4, 7, a volte anche 12.000 euro. Tra l'altro sono i prezzi che vengono, il tariffario diciamo, che viene utilizzato anche per i flussi, cioè per far entrare le persone per motivi di lavoro, in particolare per i lavori stagionali. Lo Stato è, come dire, cieco su questo, non capisce che abbiamo una normativa non solo in materia di asilo ma anche in assoluto proprio in materia appunto di ingresso in Italia, che fomenta l'illegalità e fomenta il dover rivolgersi alla criminalità organizzato o meno, per ottenere un diritto. Cioè non posso entrare in Italia legalmente perché l'ambasciata mi nega il visto in maniera assolutamente discrezionale, perché non ci sono delle leggi che mi consentono di entrare in Italia per ricerca lavoro, ad esempio, e quindi mi rivolgo alla criminalità. E di solito è una criminalità veramente organizzata in realtà, perché ci si muove con persone che sono nel territorio di origine, persone che sono in Italia, e si riesce come dire, poi a mettere in piedi tutti i meccanismi per un ingresso in Italia per motivi di lavoro, ma in realtà finto. Per quello che riguarda i richiedenti asilo o peggio ancora i minori stranieri non accompagnati che sono arrivati con l'emergenza Nord Africa, è chiaro che tutte queste persone o per rinnovare il permesso di soggiorno o per avere un'accoglienza che non gli è stata data dovranno rivolgersi a loro. Io penso ai minori stranieri non accompagnati che si sono trovati ospitati in strutture a volte assolutamente non adeguate, come anche le strutture ponte, e che si vedono ronzare fuori da queste strutture, perché la criminalità sa dove deve andare ad operare, delle persone che gli offrono quello che non sono riusciti a ottenere come un diritto, ma dico anche soltanto una scheda telefonica per chiamare casa, e glielo offrono poi in cambio di qualche cos'altro, che sia dare una mano nello spaccio, prostituirsi e via di seguito. È emersa più volte la cattiva gestione di questa cosiddetta emergenza nordafricana, che è stata comunque dovuta anche a una lacuna legislativa in ambito appunto del diritto di asilo e dell'accoglienza di migranti. E per quanto possa essere possibile, secondo lei, quali linee guida dovrebbe seguire un'auspicabile normativa in materia? Ma in realtà allora, in Italia non abbiamo una legge organica in materia d'asilo e questo è già un problema, cioè dovremmo farlo il prima possibile. E la seconda cosa che andrebbe fatta è rivedere tutta la normativa sugli ingressi, perché ci sono delle persone che entrano per cercare lavoro che vengono, a volte si mischiano diciamo, ai richiedenti asilo, perché purtroppo la povertà non viene considerata, anche quando la povertà è veramente fame, voglio dire, e quindi potrebbe essere una spinta legittima a venire in Italia e a cercare lavoro, la povertà non è considerata un motivo per chiedere una protezione internazionale, no? O un permesso per motivi umanitari. Ecco, se le persone potessero scegliere dei canali legali per entrare in Italia per ricerca lavoro, ad esempio, tanto si potrebbero separare nettamente chi cerca lavoro, i cosiddetti migranti economici, da invece chi viene in Italia perché scappa veramente dal proprio paese, perché nel proprio paese sono messi in discussione i diritti fondamentali. Che poi è una distinzione che molto spesso non è neanche così netta, perché l'abbiamo sentito prima dal rappresentante di Amnesty International: chi scappa dalla Tunisia è chiaro che viene anche per cercare lavoro, ma è anche vero che nel suo paese in questo momento non sono garantiti i suoi diritti fondamentali, perché molto spesso le cose vanno poi di pari passo, no? E si potrebbero attivare dei canali per poter in qualche modo ottenere una protezione già dal paese di transito, no? da cui si viene. Cioè, se ad esempio la Libia avesse ratificato la Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato, questo sarebbe un bel passo avanti, potremmo essere più sicuri del fatto che queste persone vengano tutelate in Libia. Invece così non è assolutamente. Ricordo solo una cosa, che il Tribunale di Stoccarda l'anno scorso ha proibito l'invio di profughi richiedenti asilo in Italia, che dovevano essere rimandati in Italia secondo la Convenzione di Dublino perché erano già passati in Italia prima di spostarsi, e ha proibito questo invio in Italia dicendo che l'Italia c'era il rischio che l'Italia sottoponesse queste persone a trattamento inumano e degradante. Non è proprio una bella figura a livello internazionale, quindi dovremmo fare in modo, come prima cosa, di garantire a noi, a chi viene in Italia a chiedere asilo e alla comunità internazionale, che noi richiedenti asilo non li trattiamo in maniera inumana e degradante. Ringraziamo la dottoressa Ballerini. Grazie. Arrivederci. Grazie. E ricordiamo ancora velocissimamente un altro episodio tragico della nostra storia italiana recente, che è quello di Rosarno, la rivolta degli immigrati, che avevano finalmente alzato la testa verso il caporalato e le forme di mafia nelle quali erano stati coinvolti. Infatti c'è da ricordare che le mafie, e anche le mafie straniere, perché sul nostro territorio non solo abbiamo quelle nazionali ma anche quelle internazionali, la prima fonte di guadagno è quella che viene ricavata dall'immigrazione clandestina. Adesso, cambiando argomento, spulciando un po' di qua e di là, sempre per questa la legge Bossi-Fini, abbiamo trovato gli impegni che lo straniero deve mantenere qui in Italia per poter... Ascoltateli con molta attenzione, perché sono diciamo punti che neanche, non per offesa, neanche noi italiani forse sappiamo. Comunque dovremmo. Livello A2 di italiano: conoscenza dei principi fondamentali della nostra carta costituzionale, conoscenza sufficiente della vita civile in Italia. Che cosa vuol dire poi non si sa, però vabbè. Obbligo di istruzione da parte dei figli minori, adesione alla carta dei valori del cittadino. Punti molto astratti e vaghi. E in tutto ciò lo Stato cosa dà? Lo Stato mezzi? Cioè, innanzitutto non esiste. Dà un significato a quello che vuole, che perché io non l'ho capito. Per il resto noi purtroppo dobbiamo lasciarvi anche per questa puntata, e vi lasciamo invitandovi a venire assolutamente alla nostra super festa Liber Raduno, che è già iniziata oggi, cioè inizia oggi. Quindi oggi pomeriggio accorrete alla Montagnola. Noi andiamo infatti adesso. Sì, adesso è l'ora di andare, e appunto sarà una 3 giorni in Montagnola e avrete delle belle sorprese, vi divertirete molto. E vi lasciamo con Rotolando verso sud dei Negritia. Lei non è del castello, lei non è del paese, lei non è nulla, eppure anche lei è qualcosa. Sventuratamente è un forestiero, uno che è sempre di troppo, è sempre fra i piedi, uno che si procura un mucchio di grattacapi, che vi costringe a sloggiare le fantesche, che non si sa quali intenzioni abbia. Prima di restare in equilibrio per un po', sassi sulla via, mentre un eco piano da lontano sale su, qua giù. We'll be right back. la ragione esplode ed ogni cosa va da sé.